Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Il ben ritrovati arriva anche da Nadia Zammitti, Mirella Lucchetti che sono in redazione e Filippo Aureggi che è in regia. Ormai le conoscete, ma ve le ricordo, le coordinate per porre domande, questioni, commenti o critiche: 349-238-6666 per gli sms, Twitter NessunLuogo24 oppure il mio personale Giampaz, infine su Facebook la pagina del programma è NessunLuogoLontano-Radio24. Ricca la pagina internazionale che affronteremo quest'oggi, però io oggi vorrei partire dalla Libia. There's been heavy fighting between rival militias near the airport of the Libyan capital Tripoli. Explosions and gunfire were heard early on Sunday on the airport road and other parts of the city. All flights to and from the airport have now been suspended. E come avete sentito, non soltanto Tripoli negli ultimi giorni è stata al centro di violenti combattimenti, ma si è aperto o riaperto il fronte a Bengasi e in più arrivano drammatiche notizie da Derna, sulle quali poi ha preso posizione anche Human Rights Watch, per esempio. È arrivata la notizia di un'esecuzione in uno stadio, un'esecuzione sommaria extragiudiziale di un egiziano accusato di omicidio. Questo a Derna, nell'ovest della Libia, che ai tempi di Gheddafi era in qualche modo un santuario dell'estremismo che il Reis era riuscito a controllare. Queste sono le ultimissime che arrivano dalla Libia, ma per capirne di più c'è con noi Nancy Porsia. Buongiorno Nancy, ben ritrovata a Nessun Luogo. Ciao Giampaolo, ciao ascoltatori. Nancy Porsia, giornalista freelance, esperta di Libia. Allora, quali sono i fronti aperti in Libia? Tripoli si combatte da giorni, Bengasi ancora combattimenti e poi affrontiamo Derna a parte. Chi sta combattendo per cosa a Tripoli e a Bengasi, Nancy? Sostanzialmente il fronte aperto è unico se si vuole analizzare la situazione libica in un'ottica macroscopica, dopodiché ci sono chiaramente faide tra milizie locali. Il fronte maggiore è sicuramente quello tra le forze del generale Haftar, che come avrete sentito più volte negli ultimi mesi faceva parte dell'esercito regolare di Gheddafi, è stato il generale che ha condotto le truppe libiche in Chad per poi defezionare e trovare rifugio in America, per poi, come dire, ripresentarsi sul territorio libico, in territorio libico durante la rivoluzione del 2011, quindi schierato dalla parte dei ribelli. Alla fine della guerra, dalla fine della rivoluzione del 2011, Haftar, come dire, pensava di riuscire a strappare il Ministero della Difesa, cosa che non è mai avvenuta, e come dire, è rimasto latitante, quindi ai lati, al margine della politica attiva libica fino a praticamente marzo del 2014, quindi di quest'anno, in cui lui appunto ha dichiarato che si sarebbe fatto promotore di un'operazione importante contro i fondamentalisti che stanno invadendo il paese all'indomani della cacciata di Gheddafi. Quindi a marzo ha fatto questa dichiarazione. Il 16 maggio, per l'esattezza, ha dato inizio effettivamente alla cosiddetta operazione Dignità a Bengasi, nell'est del paese, che è anche la regione sotto il controllo delle forze fondamentaliste. Sì. Quindi, Haftar è alla guida di questo movimento che non è riconosciuto dalle forze governative, anche se poi è di fatto supportato, è appoggiato, ma non è riconosciuto ufficialmente, quindi non combattono con Haftar i militari governativi. dall'altra parte della barricata troviamo quindi i fondamentalisti che vedono, che mettono insieme i moderati che fanno capo alla Fratellanza Musulmana, quindi fomentata e come dire, alimentata, foraggiata dal Qatar, ed anche i salafiti, quindi i gruppi più estremisti, più vicini all'area Al-Qaeda, che sono invece il prodotto della politica, come dire, dell'ingerenza dell'Arabia Saudita sempre in Libia. Motivo per cui oggi, come dire, cioè questo in termini semplicistici, ci viene riportato che appunto il generale Haftar combatte contro i fondamentalisti, ma i fondamentalisti a loro volta rappresentano una galassia ben più composita e più complessa. All'interno ci sono anche, come dire, frange che nulla hanno a che fare con gli slogan religiosi, bensì fanno parte di questa alleanza per motivi puramente territoriali, di controllo del territorio, perché appunto poi ognuno ha un suo sponsor politico a seconda degli interessi locali territoriali. Certo, tra l'altro proprio ieri veniva ricordato da questi stessi microfoni in Focus Economia da Sebastiano Barisoni, è ripreso l'export di petrolio proprio dall'est della Libia. Questo forse è un elemento che, come dire, fa riflettere: da un lato apparentemente un'economia che continua a macinare, dall'altro sul terreno situazioni di milizie che si scontrano. Andiamo a Derna, se sei d'accordo, Nancy Porzia, perché quella esecuzione in uno stadio con il pubblico di un presunto omicida lancia un segnale inquietante su quello che accade nell'est del paese. Io ricordavo prima che la zona di Terna e Tobruk storicamente è sempre stata una zona che Gheddafi trattava col pugno duro, ma dove c'erano delle tensioni estremiste molto, molto evidenti. Adesso sembra che, come dire, possano dare libero sfogo. Assolutamente sì, il Gheddafi, come dire, è riuscito nel corso del suo pluridecennale regime a tenere sotto controllo i fondamentalisti, probabilmente per principio politico, probabilmente solo perché appunto questi rappresentavano un avversario assolutamente pericoloso in un paese arabo musulmano. Fatto sta che fino alla fine dei giorni di Gheddafi i fondamentalisti che sono arroccati storicamente nella parte est del paese, quindi tra Bengasi ma soprattutto Derna, Derna è la culla di Al-Qaeda in Libia, e Derna si trova a 130 km all'incirca da Bengasi. Appunto dalla morte di Gheddafi i fondamentalisti stanno provando in tutti i modi a prendere, a accaparrarsi la leadership politica del paese. Questa operazione non è riuscita indubbiamente nel 2012, ossia in occasione delle parlamentari che si sono svolte, le prime elezioni democraticamente svolte nel paese dalla fine del regime di Gheddafi, in quanto appunto nel 2012 ha vinto l'alleanza il fronte nazionale di Jibril, che appunto rispetto ai gruppi fondamentalisti o comunque di natura religiosa è un partito che rappresenta una visione più laica, anche se stiamo sempre parlando di un paese arabo musulmano, laddove appunto la Sharia viene rivendicata come fonte unica del diritto. Dopodiché nel 2012 i poteri, come dire, la fazione religiosa fondamentalista ha fallito, quindi che cosa è successo? Che con varie spallate date alle istituzioni nazionali, si veda in particolare la legge sull'isolamento politico passata nel maggio del 2013, quando appunto è stato passato questa forma di banning, quindi di ostracizzazione di tutte quelle figure senior all'interno del regime che erano tornate nella politica attiva dal 2011 in poi, con l'ostracizzazione di questi personaggi, diciamo che le figure politiche più vicine al movimento musulmano, alla fratellanza musulmana, sono riusciti ad entrare, ad infiltrare il Parlamento e quindi a come dire, gestire il percorso di ricostruzione del paese. Questa infiltrazione da parte delle frange più estremiste ha fatto scattare l'allarme all'inizio del 2014, tant'è che Haftar, in maniera del tutto slegata dalle forze politiche, si pensa che lui sia appunto principalmente supportato da forze straniere come Egitto, Tunisia, Algeria, nonché da alcune potenze occidentali. Dopodiché questo allarme ha portato allo scioglimento forzato del primo Parlamento, no? Infiltrato e regolarmente eletto nel 2012, e all'istituzione, alla votazione di un secondo Parlamento che si è insediato a giugno e si è insediato a metà luglio, e questo Parlamento oggigiorno risiede a Tobruk, che è appunto nell'area a rischio, nell'est del paese. Sì. Questo Parlamento rappresenta le forze più liberali del paese, quindi in questo momento la Libia sta giocando una partita su un doppio binario, su un terreno militare, quindi fatto di armi e milizie, sul terreno politico attraverso questo, c'è una sorta di copresenza di due parlamenti in questo momento, tant'è vero che il presidente del primo Parlamento, Abu Shamin, non ha mai dato la sua approvazione alla cerimonia di insediamento del secondo Parlamento, quindi ufficialmente il Parlamento che oggi risiede a Tobruk e che rappresenta le forze più liberali del paese non ha piena legittimità. Questo è un punto strettamente giuridico, quindi si gioca su un doppio binario. Certo, però è anche vero che alla fine questo doppio Parlamento istituzionalizza in qualche modo la frattura della Libia, forse non si può nemmeno più parlare di Libia ma di diverse Libie. Nancy, sinteticamente ti ho letto twittare su operazioni di polizia anti-traffico di esseri umani a Zuara. Che cosa sta accadendo? Se riesci, sintetica, grazie. Sì, a Zuara in questo momento sono in corso delle operazioni di non caccia, più che altro si stanno di recupero di tutti i migranti presenti in città, proprio per invitare i migranti che si sono recati a Zuara, il maggiore snodo della Libia del traffico dei migranti, di andare via, di abbandonare la città. Vorrebbero che i migranti non abbandonino l'idea di partire da Zuara. Per quale motivo? In primis perché nelle ultime settimane si sono verificate troppo spesso tragedie a ridosso delle coste, e quindi troppi corpi sono riaffiorati sulla spiaggia di Zuara, questo creando un effetto shock, fortissimo shock tra le famiglie, nella popolazione locale. In secondo luogo c'è anche un allarme epidemia, quindi pensiamo bene all'Ebola, che sta convincendo anche i trafficanti più navigati, i trafficanti più scafati a bloccare il traffico, il passaggio di questi numeri massicci di gente per la città, appunto per evitare il rischio epidemia. Dopodiché c'è anche il fattore sicurezza. In uno stato di allerta dato da guerra civile attualmente in corso, chiaramente fare entrare persone senza un'identità ben chiara e riconoscibile può giocare un effetto negativo, può significare aprire le porte al proprio nemico, come dire. Quindi in questo momento Zuara, che ripeto è il maggior nodo del traffico di esseri umani dalla Libia verso l'Europa, c'è un'operazione in corso che vede insieme tutte le brigate locali, insieme al consiglio locale della città, per far fermare il traffico. Quindi tutti i migranti vengono invitati, non con la forza, sempre a mano armata, ma vengono invitati, come mi è stato raccontato, a lasciare la città. Quindi vengono addirittura messe a disposizione da parte delle brigate di Zuara dei mezzi, degli automezzi, per farli uscire e farli, come dire, arrivare fino a Tripoli. Grazie Nancy Porsi, anche per questo aggiornamento sulla questione immigrazione. Nancy Porsi, giornalista freelance, esperta di Libia, che ringrazio. Alla prossima, Nancy, buona giornata e buon lavoro. Grazie a te, ciao Giampaolo. Se volete commentare i temi che trattiamo quest'oggi. Un paio di ascoltatori sono convinti che io sia Sebastiano Barisoni, no, non è Focus Economia, arriva dopo, anche Sebastiano arriva dopo. Sono Giampaolo Musumeci, questo è Nessun Luogo Lontano, stiamo parlando di Libia e continuiamo a farlo perché le ultimissime dal terreno ce le ha garantite Nancy Porsia. Adesso invece vogliamo montare il grandangolo sul nostro osservatorio per capire meglio intanto se è giusto parlare di Libia. Ormai siamo destinati a una balcanizzazione della Libia, una frattura della Libia in tante Libie, e ci soccorre in questo Roberto Aliboni, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Aliboni, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, intanto una prima provocazione. Proprio il giorno dopo in cui è ripartita l'esportazione di petrolio, le notizie dal terreno parlano di armi che tuonano, e tuonano pesantemente. L'economia alla fine vince su tutto. Cioè abbiamo questa strana discrasia, no? Beh sì, però secondo me è un po' inerente alla situazione generale della Libia, che è una situazione estremamente frazionata, per cui può accadere che mentre si accendono dei conflitti in questo, in quella regione, quella località di questo vastissimo territorio, in altre parti del territorio si risolvono problemi che hanno ostacolato per lungo tempo, fino a questo momento, le esportazioni di petrolio. Non possiamo considerare come stabile questo andamento. È possibilissimo che fra una settimana il petrolio, le esportazioni di petrolio ricomincino a declinare e un qualche conflitto locale o a Tripoli o a Bengasi o a Tobruk o nel sud del paese si calmi. Ecco, quindi direi che questo è un po' emblematico della situazione caotica in cui si trova la Libia oggi. Ecco, dato il caos, dato che sembra dagli ultimi, leggere le cronache degli ultimi mesi e settimane sembra inesorabile, si è letto, si è scritto nelle settimane scorse di ipotesi, di tentativi di mediazione fra le tribù in lotta per stabilizzare il paese. In tutto ciò, lei pensa che l'Italia, dati i corposi interessi economici che ha in campo energetico, possa giocare un ruolo, o avete un'ipotesi troppo remota? L'Italia ha degli interessi corposi, certamente più importanti di molti altri interessi occidentali, e tuttavia la sua posizione direi che non è corposa come i suoi interessi nella nuova situazione. I nostri contatti, i contatti italiani in Libia sono dei contatti con gli attori, le forze, le capacità che nell'ultimo anno e mezzo hanno piuttosto visto declinare il loro potere, la loro presenza, che non accrescerla. I nostri amici sono amici che hanno lavorato durante il periodo precedente della dittatura di Gheddafi. Sono certamente amici che si trovano nelle forze che possiamo definire come nazional-liberali, assai meno sono fra gli islamisti, fra i fratelli musulmani, per non parlare di forze locali nel sud del paese o anche nelle montagne di Nafusa, dove ci sono i berberi, e lì effettivamente abbiamo meno amicizie, quindi meno contatti, e quindi i nostri contatti non sono all'altezza, per dire così, di una situazione che evolve e cambia rapidamente, che è evoluta e cambiata rapidamente nel tempo. Si era detto, si era ipotizzato in passato un'idea, un'operazione militare magari in ambito ONU, magari in ambito europeo. Cosa pensa di questa ipotesi? Forse, come dire, darebbe spalle più ampie all'Italia per un intervento pacificatore? Beh, il senatore Latorre mi pare ha proposto che l'Italia si faccia guida di una iniziativa presso l'ONU affinché l'ONU intervenga, ma non esistono le condizioni. Ogni volta che si parla di interventi internazionali a scopo di pace, di interventi di peacekeeping o di peace anche enforcing, si dimentica che perché questi interventi siano possibili occorre un minimo di base di consenso nel paese interessato, altrimenti l'operazione diventa un'operazione che va al di là del diritto internazionale. In ogni caso, secondo me, non esistono nemmeno le condizioni politiche oggi in seno all'ONU e nemmeno in seno all'Europa perché si possa seriamente parlare di un'operazione del genere. Io credo che interventi militari, fra l'altro, non sarebbero utili. La Libia è in una situazione di dopoguerra, di post-conflitto, e occorre guardare alla situazione per quello che è, senza illuderci che interventi militari possano essere risolutivi. Si può fare qualche operazione cosiddetta di controterrorismo, ma un intervento militare proprio, vero e proprio, secondo me sarebbe impossibile, e se possibile sarebbe controproducente. Questo vale per la Libia come vale per la Siria e come vale anche oggi per l'Iraq. Sì, anche perché insomma la recente storia non ha consegnato grandissimi successi di stabilizzazione dei paesi in cui le grandi potenze occidentali sono intervenute. A questo punto, Roberto Aliboni dell'Istituto Affari Internazionali, la domanda principe diventa: che scenario vede per la Libia? O tante Libie, un paese frazionato, o lo spettro della guerra civile che si allunga su questo paese? Nessun luogo è lontano. A nessun luogo lontano di quest'oggi, la situazione in Libia dopo le notizie di scontri sia a Bengasi, a Tripoli, quelli in vero a Tripoli durano ormai da parecchi giorni, e poi quell'esecuzione a Derna dentro lo stadio, un cittadino egiziano accusato di omicidio è stato a sua volta ucciso, e rispetto al quale evento Amnesty International ha lanciato un allarme sulla generale situazione rispetto ai diritti umani in Libia, in particolare nell'est del paese. Siamo con Roberto Aliboni, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali, che ci sta aiutando a capire meglio dove può andare questa Libia, o forse dovrei dire tante Libie, ed era questa la domanda che le stavo rivolgendo a Aliboni. Siamo di fronte a una Libia che si frazionerà e, come dire, verrà cristallizzata questa situazione, o c'è una guerra civile alle porte e quindi la situazione è tutta da ridefinire? Ma dunque, la risposta molto in breve a questa domanda è che certamente la Libia si è già frazionata e che questo frazionamento, questa segmentazione si sta consolidando. Perché è successo? Perché succede questo? Perché sia la catena di comando nelle poche forze armate, deboli forze armate disponibili a livello di governo, si è interrotta quando il generale Haftar è intervenuto finendo di fare confusione in questa catena di comando. Non si sa bene oggi chi sia, quale sia l'esercito nazionale, diciamo così, su cui il governo può effettivamente contare. È stato comunque un esercito debole, ma l'invasione, diciamo così, di campo da parte del generale Haftar ha finito per confondere le acque. Non c'è più una precisa catena di comando a livello nazionale. L'altro incidente, diciamo così, è stato quello istituzionale. La transizione istituzionale è andata peggiorando nell'ultimo anno e mezzo, e da ultimo il non più popolare congresso nazionale generale ha cessato di esistere, è stato sostituito da una Camera dei rappresentanti e si sono fatte le elezioni. Ma queste elezioni hanno confermato la tendenza delle elezioni che si sono svolte in Libia durante gli ultimi anni, durante l'ultimo anno e mezzo, inclusa quella a febbraio per la Camera Costituzionale, per la Commissione Costituzionale, ha confermato la tendenza a una partecipazione assai ridotta. Credo che sostanzialmente ha votato il 20% degli aventi diritto. Questo Parlamento si presenta come un Parlamento più favorevole alle tendenze nazionaliste secolari, liberali, che non alle tendenze islamiste, anzi direi che gli islamisti da questo Parlamento sono esclusi, però è anche vero che questo Parlamento non rappresenta praticamente più niente. Sì, ed è anche vero che gli islamisti fanno parlare le armi nel frattempo. Gli islamisti, eccetera, come mi pare che dicesse la collega che ha parlato in precedenza. E quindi la catena, diciamo, di transizione istituzionale è profondamente avariata, è interrotta. E allora, siccome in fondo l'unica forza che avrebbe potuto dominare la frammentazione, diciamo così, localistica militare che si era prodotta subito dopo la rivoluzione con le milizie di questa città, di quell'altra città, l'unica forza che avrebbe potuto rimettere assieme con un disegno costituzionale appropriato questa frammentazione era l'istituzione parlamentare e la Commissione Costituzionale. Entrambe queste istituzioni sono completamente alla deriva, quindi io personalmente non vedo come si possa pensare che ci possa essere ancora una transizione democratico-costituzionale, istituzionale in Libia. È da notare che l'appoggio a questa transizione è la politica ufficiale di tutti i paesi occidentali, compresa l'Italia. Giustamente è stata appoggiata questa transizione perché mettesse capo a uno Stato, certo, democratico e solido con il quale si potesse cooperare fruttuosamente. Certo, e quello che sta venendo fuori invece in realtà sono istituzioni che però appaiono fortemente svuotate del loro potere, perché come abbiamo sentito, insomma, sul terreno parlano più che altro le armi. Grazie Roberto Aliboni, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Buona giornata, buon lavoro Aliboni. Grazie a lei, arrivederci. Questa era la lunga pagina dedicata alla Libia, perché mentre siamo tutti concentrati su quello che accade in Iraq, a Gaza, in Ucraina, eccetera, poi non dobbiamo dimenticare anche i teatri, quelli che sono passati in secondo piano nell'economia mediatica, ed è uno, insomma, anche delle missioni di questo programma. Di nessun luogo è lontano. Adesso vi propongo invece una riflessione che, rispetto alle quali devo confessarvi, ero molto in dubbio fino all'ultimo, però credo che sia dovuta. Dopo quell'orrorifico, quel tremendo video che è girato in rete, la decapitazione di James Foley, rispetto al quale, ad esempio, ricordava il Guardian ieri, la polizia britannica ha detto che è un crimine far girare il video, fare lo share, fare la condivisione di quel video, e questo va nella esatta direzione della famiglia di James Foley, che aveva chiesto assolutamente di non far girare quel video, quelle terribili immagini, anzi di ricordare James Foley con tutte le altre immagini che i tanti colleghi hanno. E se andate nei social e andate a vedere, ci sono delle belle campagne per restituire a James Foley quell'immagine che noi tutti gli dobbiamo e ricordiamo. Detto ciò, è innegabile che un gruppo estremista come ISIS ha affinato e ha reso di una potenza inimmaginabile fino a qualche anno prima l'utilizzo dei media. Ci soccorrerà nell'analizzare come è stato possibile e come eventualmente si può combattere tutto ciò il professor Marco Lombardi, che è responsabile del centro di ricerca It's Time ed è professore associato alla Cattolica di Milano. Professor Lombardi, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a a tutti voi. Allora, ISIS ha investito nella comunicazione in mezzi, in strategie, in capacità di analisi, da dove deriva tutta questa efficacia, questa intelligenza benefica nella comunicazione? Beh, la comunicazione del jihad ha una lunga storia e sono almeno 20 anni che ci si occupa in maniera precisa di questo tipo di comunicazione, e ISIS o IS come lo si chiama ora non ha fatto altro che continuare una tendenza di miglioramento, uso di proposito queste parole, anche professionale della comunicazione, anche perché teniamo presente che la più grande battaglia che IS sta combattendo in questo momento è quella della promozione del jihad, quindi quella del reclutamento. Pertanto l'uso della comunicazione è un fattore strategico, ma giusto per ricordare i tempi che furono, da sempre il jihad ha avuto delle unità di fuoco accompagnate da delle unità di ripresa, solo che 20 anni fa i video venivano non montati e caricati così come erano sul primo web 1.0 dell'epoca. Sì. Oggi sono cambiate le tecnologie, le professionalità sono migliorate e il jihad ISIS ha le sue major, quindi le sue agenzie comunicative, e usa al meglio le tecnologie e le strategie della comunicazione esattamente come facciamo noi. Sì. Non c'è assolutamente nulla di naif. Fra l'altro, professor Lombardi, lei cita la figura del cosiddetto combat camera, che è una figura professionale che qualsiasi esercito occidentale utilizza, cioè durante le operazioni di combattimento c'è qualcuno che oltre il fucile ha una telecamera e riprende ovviamente quello che accade. Il problema, diciamo, il problema, insomma, la grande efficacia di IS è che ha account Twitter, utilizza Facebook, lo farà anche, vedremo poi, in maniera assolutamente astuta, perché adesso girano i gattini, verrebbe da sorridere se non fosse drammaticamente efficace, girano i gattini che, come mi suggeriva Mire Lucchetti, ne discutevamo prima in redazione, è un simbolo che, se noi guardiamo gli account di Facebook, è dannatamente utilizzato, no? Dalla gente comune, il gattino, che è questo simbolo della normalità delle nostre città, la normalità tutta occidentale, atea se volete, ebbene irrompe nell'iconografia del jihadista che col Kalashnikov in mano accarezza il gattino e gli dà il latte, e questa è un'operazione incredibile, no? Assolutamente sì, ha citato due punti che sono importanti. Uno, l'uso dei social, e questa è la deriva tecnologica insieme alla competenza. IS usa amplissimamente Twitter e Facebook, ci sono gruppi con oltre 35.000 follower, hanno e utilizzano in maniera assolutamente sagace una quantità di profili dei cosiddetti foreign fighters, dei combattenti stranieri, che su Facebook, supportati da ISI, aiutano nel reclutamento promuovendo quelle che sono le loro idee radicali. Quindi Twitter e Facebook oggi sono molto meglio usati dall'IS combattente che non dal cosiddetto counter-terrorismo, dalle istituzioni occidentali che ancora dibattono su come un'istituzione possa utilizzare, se possa utilizzare i social network, quindi siamo ampiamente in ritardo. E dall'altra, l'uso delle immagini. Sì, le immagini tradizionali, soprattutto sui social, sono sempre state quelle delle vittime di IS, quella dei mezzi militari e logistici catturati, ma anche quelli più recentemente, per esempio, delle contronarrative, cioè si racconta ISI come non è efficace l'attività governativa dello Stato iracheno piuttosto che siriano. Ecco, accanto a questo si è sviluppata tutta un'intelligenza il cui obiettivo è vero, noi IS siamo combattenti per le nostre idee radicali, ma siamo delle persone normali, questo è quello che si vuole far passare. Proprio recentemente, quando al-Nusra ha risposto alla dichiarazione del califfato con l'istituzione di un emirato, lo stesso IS ha rilanciato una brochure interessantissima per l'emirato di Aleppo, sono circa una ventina di pagine che possono essere tranquillamente prese come una brochure turistica in cui invita stranieri a fare turismo in un paese dove Aleppo e l'area di Aleppo, dove non si vedono armi, si vedono miliziani IS, bandiere di IS che usano la televisione, che istruiscono i bambini a scuola, che mietono grano e si vedono campi fioriti. Quanto di più idilliaco sembra possa esserci nell'emirato di Aleppo di IS. Questo di proposito per dire sì, combattiamo come necessario per realizzare un paese normale nel quale vi invitiamo. Ancora una volta non dimentichiamo che l'obiettivo è quello di attrarre. Il califfato è un grande booster, cioè un grande magnete di attrazione per le pratiche di reclutamento, e IS in questo momento vuole attrarre nuove combattenti. Ci credo che siano più di 20.000, recentemente è stato dichiarato 23.000, ma soprattutto famiglie, okay? non solo combattenti, sono famiglie che IS sta attraendo, dando un salario a chi combatte e dando una casa, in genere quelle sequestrate ai politici ex iracheni da parte di IS, alle famiglie che arrivano. Quindi è tutta necessaria una iconografia di normalità all'interno di uno Stato che, se non fosse perché è gestito con la pratica della Sharia e con pratiche direi di comportamenti assolutamente medievali come quelli che sono promossi da IS, sembrerebbe altrimenti del tutto normale per le immagini che trasmette. Nessun luogo è lontano. Le complesse, a tratti sofisticate strategie che ISIS o IS sta mettendo in campo nei follower, nei social, con i video. E a questo l'argomento, al centro di questa pagina di Nessun Luogo Lontano, siamo col professor Marco Lombardi, che è responsabile del centro di ricerca East Time ed è anche professore alla Cattolica, all'Università Cattolica di Milano. Professor Lombardi, analizzando la strategia anche comunicativa di Al-Qaeda negli ultimi anni e poi quella più recente dello Stato Islamico, viene da dire che o lo Stato Islamico è più bravo a comunicare di Al-Qaeda, perché è riuscito a fare in pochi mesi quello che Al-Qaeda non è riuscito a fare in termini di reclutamento, in termini di costruzione di basi di uno Stato Islamico, perché controlla il territorio, controlla le risorse, eccetera. È più bravo a comunicare o è l'idea del califfato che è più forte di quella generica lotta all'Occidente che Al-Qaeda cavalcava? Cioè è più forte il contenuto o sono più bravi a comunicare quel contenuto? Ma direi che in questo momento ha dalla sua il contenuto al-Baghdadi. Ricordiamoci che al-Baghdadi, quindi IS, ha avuto grandi discussioni eufemisticamente con al-Nusra, la componente ufficiale riconosciuta da Quds, al-Qaeda in Siria, perché incorpora un vecchio dibattito tra al-Zarqawi, l'area militare di al-Qaeda, e al-Zawiri, l'area intellettuale, Allora ha ricomposto nella figura di Osama. Poi al-Zarqawi è stato eliminato, al-Baghdadi ne ha preso anni dopo la discendenza e ha rincorporato questa visione militare. Oggi questa visione militare è di successo, perché il califfato, indipendentemente dal fatto che abbia più o meno delle radici storiche valide, come alcuni accademici argomentano, è dal punto di vista comunicativo un enorme atu. Il califfato per la prima volta si sostanzia in un'area di territorio controllata da un movimento jihadista, cosa che neanche Al-Qaeda era riuscito a fare, quindi a buon gioco, utilizzando le stesse competenze, perché è stata a cui innanzitutto a sviluppare queste competenze nella comunicazione, ad avere una penetrazione, diremmo così, mediatica molto più forte. I risultati si vedono in mezzo mondo, e a seguito della dichiarazione del califfato che abbiamo i diversi movimenti qaedisti dalle Filippine all'Indonesia, dal Nord Africa al Corno d'Africa, al Caucaso, che hanno prestato giuramento di fedeltà ad al-Baghdadi, superando al-Zawiri. Ecco perché al di là delle grandi competenze ed efficacia comunicativa del movimento IS, è estremamente pericoloso ed è la minaccia sicuramente più drammatica che ci troviamo a affrontare in questi ultimi anni e che molto probabilmente perdurerà anche per il prossimo periodo. Sì, oltre allo spietato orrore a cui ci sta tristemente abituando sul terreno. Grazie al professor Marco Lombardi, It's Time, ma anche docente alla Cattolica. Buona giornata e buon lavoro, professore. Grazie a voi e a presto. adesso vi racconto un'altra storia che in realtà è l'onda lunga del rischio dell'estremismo religioso in crescita, del rischio del reclutamento dello jihadismo in seno all'Europa, perché in Kosovo, siamo nei Balcani, una massiccia operazione di polizia nei giorni scorsi ha portato all'arresto di almeno 40 persone e il ritrovamento di armi esplosive e munizioni di diverso calibro. L'accusa per queste persone era di essere coinvolte in operazioni legate non solo a ISIS ma anche al Nusra. I sospettati, gli arrestati hanno negato tutto ciò, però come dire, questa operazione di polizia denuncia il fatto che l'allarme è sicuramente altissimo. Fra gli arrestati verrà fra l'altro anche un imam accusato di essere uno dei principali ispiratori del jihad in Kosovo, però sicuramente questo è un brutto segnale che riaccende i riflettori anche su paesi che normalmente i media non raccontano. Allora, per capirne di più che tipo di operazione è stata, qual è il rischio reale, abbiamo raggiunto Nate Tabak, che è il caporedattore del giornale Pristina Insight, e a lui abbiamo chiesto conto di questa grande operazione antiterrorismo, e la domanda è stata: è il segno che l'estremismo religioso sta crescendo in Kosovo? It is certainly a sign of that, but it's not as though this problem came out of nowhere. This has really been an issue that's been going on. Nate Tabak dice: è certamente un segno di questo, ma non è certo un problema che nasce adesso dal nulla, è qualcosa che si trascina indietro nel tempo, dalla guerra degli anni 90. C'entra anche il flusso di denaro dai paesi arabi che finanziano organizzazioni islamiche estremiste. La parte peggiore alle origini di questo fenomeno sta nell'ultima guerra in Iraq. Si conta che circa 1030 kosovari siano andati a combattere sul campo in Iraq, appunto, e molti di loro sono connessi con l'Islam più radicale. Mentre erano sul campo probabilmente hanno mantenuto contatti, hanno svolto esercitazioni, training, hanno ricevuto equipaggiamenti e poi sono tornati in Kosovo nel tentativo di organizzare le proprie strutture terroristiche. E questo, conclude Nate Tabak, è quanto affermano le forze di polizia locali. La domanda che si pone lo stesso giornalista è: quanto è grossa la minaccia di terrorismo islamico in Kosovo? E la risposta è difficile, ed è il dibattito che si sta sviluppando nel paese in questo momento. Allora, a questo punto la domanda mi è sorta spontanea: ci sono motivi particolari al di là di questa specifica operazione di polizia per cui dovremmo accendere i riflettori sul paese balcanico, per cui ci dovremmo preoccupare più del Kosovo di quanto ad esempio non succeda nel reclutamento in Francia, Gran Bretagna o Italia? Sentiamo. I think the Kosovo is it's hard to say whether it's worse than these other countries in Western Europe, but Kosovo does have a unique challenge in that it's... È difficile dire che quanto può succedere in Kosovo sia più o meno pericoloso di quanto succede in Europa. C'è però un aspetto che è unico. Il Kosovo è il secondo paese più povero d'Europa, i suoi cittadini sono i più isolati d'Europa. I kosovari non possono uscire dal paese, non possono andare da nessuna parte senza un visto. È la popolazione in assoluto più giovane e povera di tutta l'Europa. Per cui l'Islam radicale può diventare una specie di salvagente, offrendo a questi giovani qualcosa da fare che abbia uno scopo e che possano fare nel luogo che preferiscono. L'estremismo offre loro un mondo di potenziali avventure, e questo è probabilmente l'aspetto principale per cui preoccuparsi. So I think that's a concern. You have a very poor young population. E ciò che l'estremismo possa costituire è davvero un'attrattiva per una popolazione così giovane e desiderosa di qualcosa di meglio. Ma questa, d'altro canto, non è una condizione diversa da quella che si può verificare in altri paesi, come Francia o Gran Bretagna. Si tratta sempre di gruppi socialmente marginalizzati, simili tra loro, che vedono questa possibilità di cambiamento di vita e possono ovviamente trasformarsi in un pericolo per la sicurezza del paese da cui provengono. Populations who see this outlet and then in turn are posing a danger potentially to the country where they come from. La chiacchierata con Nate Tabak, caporedattore di Pristina Insight, qui a Nessun Luogo è Lontano, dopo la massiccia operazione che ha portato all'arresto di oltre 40 persone, tra cui anche un imam, e al ritrovamento di un vero e proprio arsenale appunto nel paese balcanico, rischio jihad, dopo che in passato, appunto come ci ricordava Nate Tabak, vi sono stati numerosi kosovari che hanno imbracciato le armi in altri paesi. A questo punto però il rischio è, per chi racconta queste cose per i giornalisti, di ridursi a slogan e quindi iniziare a dire il Kosovo è il nuovo santuario del terrorismo islamico in Europa. Sentite cosa dice Nate. No, dice, forse uno slogan come questo ci porta un po' lontano, è un po' eccessivo, ma credo che il problema ci sia e non è un problema isolato. Non credo che il rischio sia immediato, dice il caporedattore di Pristina Inside, ma è sicuramente qualcosa di cui occorre preoccuparsi. E anche i media occidentali dovrebbero evidenziare il pericolo e spingere a rivedere quelle che sono le attuali politiche dei paesi europei nei confronti del Kosovo, in termini di isolamento, emarginazione della popolazione, di restrizioni di visto e soggiorno estero, di permessi per muoversi nella stessa Unione Europea. Tutte queste restrizioni non offrono molte speranze e la massa di giovani qui si sente più fiduciosa nel seguire un imam incendiario piuttosto che un ufficiale in divisa. E in questo modo Nate Tabak, giornalista di Pristina Insight, risponde anche a uno degli ascoltatori che al 349-238-6666 diceva: ma per contrastare questi gruppi terroristici non si potrebbe velocizzare l'ingresso in un'organizzazione europea di paesi fondamentali come la Turchia e il Kosovo? Questo era Carlo, un nostro ascoltatore, a cui Nate appunto ha risposto nella chiacchierata che abbiamo registrato poco prima di essere in onda. Allora, sono 16:56, abbiamo tempo di sentire l'ultima domanda, anzi l'ultima risposta di Nate Tabak. Già che citava la questione politica, lui ho chiesto se questa operazione di polizia fosse un'operazione di polizia al 100% pura, cioè una vera inchiesta volta a beccare i colpevoli, oppure se la condizione politica del Kosovo giustificasse anche un'operazione un po' di facciata. Sentite. I don't think it's a 100% pure police operation. I'm not saying that these Non credo che si tratti di un'operazione puramente di polizia, ci sono sicuramente anche delle motivazioni politiche, spiega il giornalista, perché il Kosovo ha già avuto anche il suo momento James Foley, per così dire, quando un anno fa il 25enne kosovaro Lavdrim Muagheri, che ha combattuto sia in Siria che in Iraq, ha postato su Facebook le proprie foto, ritratto mentre decapita un uomo. Questo episodio ha catturato molta attenzione dentro e fuori dal Kosovo. E al tempo stesso il primo ministro è in una posizione molto debole e questa minaccia interna è essenzialmente motivata da esigenze di sopravvivenza politica. Quindi anche il timing, spiega il giornalista, di questa operazione di polizia non è una semplice coincidenza. Ma la mia opinione è che questa operazione è principalmente mirata a mostrare a chiunque, dentro e fuori il Kosovo, soprattutto a Bruxelles e a Washington, che il primo ministro Hashim Thaçi è l'uomo giusto per affrontare questa sfida. And outside the country, in Brussels, in Washington, that Hashim Thaçi, the prime minister, is a guy who's gonna fight this stuff. E con questa pagina dedicata ai Balcani e al rischio jihad, anche lì in quella zona, si chiude questa puntata di Nessun Luogo Lontano, scritta con me da Nadia Zammitti, Mire Lucchetti, la musica e il ritmo affidati a Filippo Aureggi. Intanto vi auguro un buon weekend, l'appuntamento è per l'ultima settimana di programmazione, lunedì ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci.